Mebius, il viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Con Mebius siamo tornati a Expo, trasmettiamo dallo spazio Emilia Romagna, vista Albero della Vita, che è qui sulla sinistra. Siamo proprio in centro e ci torniamo con una puntata ricca di un'ora e speriamo di riuscire a raccontare tutto quello che abbiamo preparato. Partiamo subito, quali sono gli argomenti? Il rivoluzionario ominide sudafricano Homo Naledi, cerchiamo di capire gli interrogativi molti che sta suscitando. Io e Chiara abbiamo visto se qua fra la gente in coda c'è qualcuno che gli assomiglia, ma qualche somiglianza l'ho avvertita. Va bene, giovedì notte invece sono stati assegnati a Boston gli ignobili Nobel, cioè gli Ig Nobel. Chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ecco, non stiamo insultando l'Accademia delle Scienze svedese, ma come ogni anno arrivano proprio in questi giorni. Le pareti verticali piene di piante, l'insospettabile differenziazione dei rifiuti domestici, ce ne raccontano due start-up. E oggi a Expo è la giornata della birra e del sake, che sono bevande estremamente radicate nelle tradizioni dei paesi che le producono. E noi che cosa vi raccontiamo? Vi raccontiamo la loro storia, che è chiaramente in bilico tra la tradizione e ovviamente delle tecnologie avanzatissime. Con un signore giapponese e un signore da New York. E infine risponderemo alla domanda di Sara, ascoltatrice, che ci chiede: ma perché gli insetti portano un sacco di malattie e loro non si ammalano mai? Allora, prima di commentare insieme con il nostro ospite la scoperta, lo dicevamo, di Homo Naledi, che è stata annunciata proprio la settimana scorsa, proponiamo un piccolo stralcio dell'intervista dell'antropologo, l'unico italiano che appartiene al team internazionale che appunto ha fatto questa ricerca. Si chiama Damiano Marchi, antropologo dell'Università di Pisa, e lo abbiamo raggiunto subito dopo l'annuncio. Infatti ci scusiamo un po' per la qualità dell'audio, perché i mezzi a disposizione erano di fortuna. Un po' immediati. Sentiamo. Una delle caratteristiche più particolari di questa specie è dovuta al fatto che, essendo presenti praticamente tutte le ossa, siamo riusciti a determinarne la morfologia in maniera accurata. E quindi abbiamo visto che, insieme alle caratteristiche moderne dell'arto inferiore associabili con postura eretta e capacità di camminare per lunghe distanze, abbiamo caratteristiche più primitive, come per esempio la presenza di dita delle mani e dita dei piedi curvate, che sono normalmente associate con la capacità di arrampicarsi sugli alberi, che erano presenti per esempio nelle australopitecine, in lusi per intenderci. Altri caratteri primitivi sono per esempio le dimensioni del cervello, che è molto piccolo, ha le dimensioni di 500 mm, quindi paragonabile, se vogliamo, a un'arancia, e anche questo è un carattere che in un ominide come Homo naledi, che in generale è moderno e simile al nostro genere, al genere Homo, non ci aspettavamo di trovare insieme alle caratteristiche tipiche di Homo queste caratteristiche primitive. Quindi questa, se vogliamo, è la cosa più entusiasmante e nuova, l'associazione nella stessa specie di caratteri che non credevamo fosse possibile trovare associati nella stessa specie. Un bel po' di misteri, vediamo se riusciamo a chiarirli un poco con Guido Barbuiani. Buonasera Barbuiani. Buonasera. Benvenuto. Docente di genetica all'Università di Ferrara, lei Barbuiani ha scritto un bell'articolo ampio su tutti questi problemi aperti sul domenicale del Sole 24 Ore, e noi proviamo a vederne qualcheduno. Ecco, adesso diciamo è definitivamente chiusa quell'illusione di essere noi quell'animale, no, speciale, che ha una sua dipendenza lineare nel tempo, però cos'è che sta venendo fuori? Che ne so, che potremmo essere come i felini, che ce ne sono 40-50, e poi a un certo momento c'è una tigre che è particolarmente intelligente. Cioè, cosa potrebbe succedere nel futuro con le scoperte? Il futuro non riesco a prevederlo, anche perché la scienza si occupa appunto di guardare indietro, certo, non avanti. Ma è chiaro che l'idea un po' ingenua, un po' ottocentesca, di una scala evolutiva in cui da quello che è più primitivo si passa attraverso forme intermedie fino alla modernità, fino a noi, questa idea era davvero molto ingenua, e sono già parecchi anni che è stata messa in crisi. Stephen Jay Gould, il grande evoluzionista e divulgatore, diceva appunto che non siamo come una scala a pioli, la nostra evoluzione è stata quella di un cespuglio. La cosa particolare della nostra evoluzione, di nostra vuol dire di noi umani, è che a un certo punto di tutto questo vasto cespuglio che ha contenuto molte specie, e immagino che altre poi continueremo a scoprirle in futuro, siamo rimasti solo noi, siamo gli unici, e questo ci dà indubbiamente uno status singolare, insomma, un po' particolare, evoluzione, sì. Singolare, sì, senz'altro, senza voler naturalmente poi entrare nel famoso discorso di che cosa vuol dire il fatto che noi abbiamo il linguaggio articolato, eccetera, questo ci porterebbe molto, molto lontani. Anche l'abbiamo sentito dalle parole di Mark, insomma, questo Naledi ha un strano mix di caratteristiche un po' antiche e un po' nuove, cioè un po' risalenti, come dire, agli australopiteci e un po' al genere Homo. È lì che potremmo intanto forse posizionarlo nella nostra, diciamo, scala del tempo, nella scala evolutiva? E poi davvero queste caratteristiche di Naledi sono così straordinarie, cioè mettono insieme caratteri primitivi e caratteri moderni? Ma guardi, il problema di dove collocarlo è uno dei principali problemi aperti, perché non si ha ancora, la datazione. Quanti anni ha? Perché per il carbonio 14 si può risalire indietro di qualche decina di migliaia di anni, e non c'è dubbio che qui siamo più indietro nel tempo. Per altre datazioni bisogna disporre di dati geologici di cui in questo caso non si dispone. Per esempio, per datare Lucy si sono usate delle tecniche che si chiamano potassio-argon su delle ceneri vulcaniche nelle quali era immerso lo scheletro quando è stato ritrovato. Ricordiamo Lucy, che è stata la grande antenata per tanti anni. Infatti, molto, molto famosa, insomma, come sappiamo. Sì. Ecco, Naledi rischia di oscurarne la fama, ma il problema è appunto che in questa caverna in Sudafrica, dove sono stati trovati questi reperti, abbondantissimi, come si diceva un attimo fa, i corpi sono stesi sul pavimento della caverna, non ci sono ceneri vulcaniche, e quindi la datazione al momento non è stata possibile, non sono immersi in uno strato fossile che in qualche modo si possa datare, e in questo modo indirettamente datando anche i reperti. E è interessante comunque, perché se si tratta di una forma molto antica, diciamo 3 milioni di anni fa, quindi coeva di Lucy più o meno, e vuol dire che a quell'epoca si erano sviluppate delle caratteristiche che oggi abbiamo chiamato moderne, ma io farei sentire le virgolette in questo, perché antico e moderno appunto si riferisce a quella vecchia idea della scala evolutiva che noi scaliamo verso l'alto. Caratteristiche comunque che troviamo in forme che sono comparse molto più tardi, appunto la struttura del corpo, il bipedalismo, il fatto che fossero snelli, così. E quindi vuol dire che queste caratteristiche si sono evolute una prima volta in Naledi, e probabilmente si sono evolute indipendentemente in altre forme umane. Se invece Naledi è più recente, e allora vuol dire che, insomma, quando c'era in giro già della gente abbastanza simile a noi, diciamo 1 milione di anni fa in Africa, quando c'erano delle creature, oggi le chiamiamo Homo ergaster, abbastanza simili a noi con un cervello un po' più piccolo, insieme a loro viveva appunto questo Homo Naledi, che aveva caratteristiche molto diverse, quindi due specie umane fortemente distinte. E si aggiunge fascino al fascino di questa scoperta anche il posto dove è stata trovata, questa grotta a 30 metri di profondità, a 50 km da Johannesburg, che appunto custodisce questi reperti, questa grande quantità di reperti, si parla anche di 1600 resti, insomma, e tra l'altro con un accesso, davvero un accesso alla grotta, intendo, molto molto limitato, per cui c'è una storia affascinante. Sembrerebbe che il team di ricerca abbia addirittura bandito, insomma, un concorso, abbia aperto un bando per geologi che sapessero in qualche modo a infilarsi, perché hanno risposto solo donne praticamente. Come mai questa concentrazione di così tanti uomini piccolini? Questo le dice mistero. Che sono passati attraverso il buco adesso, o che sono passati attraverso il buco all'epoca di Homo Naledi? No, questa concentrazione lì di resti, che ci dicono che c'era tanta gente lì. Ecco, questo è una cosa che non si sa, questa è una cosa che ancora non si capisce, perché sono state fatte varie ipotesi, insomma, la più plausibile mi pare quella che ha fatto Richard Leakey, che è il famoso antropologo, paleontologo keniota che ha lavorato in Kenya a lungo, e Leakey diceva: guardate, probabilmente c'era un altro ingresso, non passavano per questo buchino, sarà crollato qualcosa, non l'abbiamo ancora trovato. Resta il fatto però che c'è una grande concentrazione di individui lì dentro, probabilmente non vivevano lì dentro, perché non sono stati trovati né strumenti né segni di una abitazione attiva. Non è neanche possibile che fosse una tana di qualche animale feroce che portava lì le prede, perché sarebbero restate sulle ossa le tracce dei denti, segni, sono state spezzate le ossa, così. A questo punto sorge un tema anch'esso delicato, ed è stato lo stesso Lee Berger che ha diretto i lavori a fare questa proposta, secondo me un po' spericolata, e quindi lui dice: questa è una sepoltura collettiva. Allora, i dubbi che ho io riguardano semplicemente un ragionamento, insomma, di puro buon senso. noi troviamo delle sepolture in realtà solo molto recenti, poche decine di migliaia di anni fa, e con Homo naledi appunto non sappiamo bene quanto lontani siamo nel passato, ma siamo molto lontani. È possibile che una specie come Homo naledi, che aveva, abbiamo sentito prima, un cervello grande come un'arancia, fosse in grado di concepire un al di là, fosse in grado di organizzare dei rituali? Non mi sembra facile, non mi sembra probabile, quindi io sarei più per tenere in sospeso il giudizio in questo momento e vedere poi quello che scopriremo continuando gli scavi, perché ci sono tantissime altre ossa da diseppellire e quindi il lavoro proseguirà. Va bene, grazie Barbuiani, buon lavoro. Buona ricerca. Grazie a voi, buonasera. Noi intanto andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi torniamo qui. Torniamo a qui a Expo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Noi siamo a Expo, ma fossimo stati anche in Alaska, sicuramente, vi avremmo certamente dato notizia della 25esima edizione dei premi, attenzione, Ig Nobel, i celebri riconoscimenti assegnati alle ricerche scientifiche che, come si dice sempre, prima fanno ridere e poi fanno riflettere. Oh, gli ascoltatori di Mebius però li conoscono perché noi tutti gli anni ne parliamo. E come ogni anno, anche quest'anno i ricercatori premiati vengono chiamati sul palco. Raccontiamo un pochino come avviene la premiazione. Raccontano il proprio studio davanti a una platea molto vociante, numerosa, composta da scienziati, ricercatori, gente comune, ma soprattutto dei veri premi Nobel. Anche dei premi Nobel, che danno anche i premi, insomma. Come sempre, la presenza fondamentale è quella di Miss Sweetie Pooh, che interviene se qualche ricercatore si dilunga nella presentazione. Sentiamola. Miss Sweetie Pooh is 8 years old. A 8 anni. Miss Sweetie Pooh, would you please demonstrate what you'll do when a speaker exceeds se può far vedere che cosa time? Dice. Cosa farai? Cosa dirai, Hans? Please stop. I'm bored. Lei dice, per favore smettila, sono annoiata. Sono annoiata. E continua a dirlo, I'm bored. Finché sono il ricercatore non smette la sua presentazione. Ci sono stati momenti anche tesi, a volte. Però, insomma, Sweetie Pooh è fondamentale per rendere un po' animata la presentazione. Va bene. Oh, cosa si vince? Ecco, sono anni che gli Ig Nobel ricevono come premio i dollari dello Zimbabwe. Sì, in una misura altissima, 10 trilioni di dollari, che da anni purtroppo per quelli dello Zimbabwe corrispondono a circa 33 centesimi di dollaro americano, 10 trilioni, quindi non molto. Ok, allora adesso tutti in piedi sul divano perché snoccioliamo i vincitori, c'è anche un italiano anche quest'anno, andiamo con ordine, sentiamoli, rullo di tamburi. Partiamo con il premio Ig Nobel per la chimica, assegnato ad un team di ricerca australiano e americano che ha trovato la ricetta perfetta, cioè come scuocere parzialmente l'albume di un uovo bollito. Insigniti del premio Ig Nobel per la fisica sono alcuni ricercatori cinesi e americani per uno studio congiunto sui tempi di minzione. Oh. Sì, sì, sì, hai capito bene. Hanno dimostrato che nei mammiferi il tempo per l'espletamento della pipì non dipende dalla dimensione corporea, quindi ci mettiamo più o meno tutti lo stesso tempo. Noi, i leoni, gli elefanti, i cani, i cammelli, ci mettiamo circa 21 secondi, secondo più, secondo meno. Sì, la quantità varia un po', però. Se ti dico U-H-U-U, rispondo io. Pronuncia una parola universale. Questa è un po' la conclusione a cui sono giunti i ricercatori vincitori del premio Ig Nobel per la letteratura. UHUH esiste in tutte le lingue del mondo, anche se i motivi rimangono sconosciuti. E a me anche il significato, magari vuol dire un sacco di roba. Soprattutto in italiano, magari diverse. Nelle altre lingue. Vabbè. Siamo giunti finalmente anche quest'anno al premio italiano, vinto dal nostro connazionale Gennaro Bernile, con un team internazionale. In realtà è l'Ig Nobel per il management ed è stato assegnato alla ricerca, attenzione, che avrebbe dimostrato come i manager di successo, ovvero gli imprenditori, quelli che amano di più il rischio, siano stati in realtà coinvolti in gioventù da alcuni disastri naturali, come ad esempio i terremoti, le eruzioni vulcaniche, gli tsunami e anche gli incendi. Vabbè, glielo chiederemo quando riusciremo a contattarlo. Il prestigioso premio Ig Nobel per l'economia va alla polizia metropolitana di Bangkok per aver deciso di pagare di più i poliziotti che rifiutano le tangenti. Questo assomiglia molto al premio dell'anno scorso vinto, ti ricordi, dall'Istat italiano per aver calcolato discusso nel PIL gli introiti da prostituzione, droga, contrabbando e così via. Vengono dal Giappone, Slovacchia, Cina e Germania i ricercatori che sono stati insigniti del premio Ig Nobel per la medicina. Anche questo è un premio prestigioso. Questo è bello. Hanno scoperto i benefici e le conseguenze biomedicali dei baci appassionati e di alcune altre attività altrettanto intense di cui non stiamo qui a specificare. Però, insomma, si riducono addirittura le manifestazioni allergiche. Ecco, le allergie sono milioni, baciamoci. Allora, una sottocategoria del premio per la medicina va alla diagnostica. Un gruppo di ricercatori internazionali ha determinato che l'appendicite acuta, attenzione, può essere diagnosticata con precisione se il paziente mostra segni di dolore acuto quando prende i dossi con la macchina, quei dossi per allentare la corsa. Sì, tu vicino alle scuole porti il figlio a scuola, uno che ha l'appendicite acuta vorrei vederlo sul dosso. Va bene. Il vero Nobel invece per questa categoria non esiste, ma l'Ig Nobel per la matematica invece c'è. Come? È stato vinto da un gruppo austriaco e tedesco che ha tentato di spiegare matematicamente come l'imperatore marocchino Moulay Ismael tra il 1697 e il 1727, quindi in circa 30 anni, ebbe 888 figli. Ecco, l'Ig Nobel si è una questione di statistica. Sempre per la loro grande applicabilità delle ricerche vengono premiate. Strepitoso, un gruppo cileno vince invece il premio Ig Nobel per la biologia per aver osservato come si muovono dei pulcini ai quali è stata appiccicata una coda finta. Sì. Avrebbero osservato questi cileni che si muovono esattamente come si pensa si muovessero i dinosauri. Questa è sempre buffa, ma come cosa, ma nascondo la verità. Perché dal punto di vista evolutivo sembrerebbe proprio che alcuni uccelli, in particolare le galline, si siano sviluppate forse dagli animaloni. Insomma. Ultima categoria di quest'anno, filosofia e entomologia insieme. Si sa, insomma, che le categorie degli Ig Nobel non sono proprio così rigorose. No. Questo premio è stato assegnato ai ricercatori che hanno dimostrato quanto sia meglio essere punti da un'ape in alcune parti del corpo, ad esempio le dita, la testa o le braccia, piuttosto che in altre, come ad esempio su un labbro o sul pene. E beh, sono una ricerca difficilissima, eh? Ecco, questi erano gli Ig Nobel del 2015. E siamo qua in studio, gli Nobel li abbiamo chiusi, invece abbiamo due start-up ospiti. Ci sono venuti a trovare Noemi De Santi di Junker, benvenuta. Buongiorno. E poi Giulio Pischedda di Ungreen. Buonasera. Allora, Junker è Junk, che sta per spazzatura, e R invece è Emilia Romagna. Esatto. E perché quindi siamo, giochiamo in casa, perché siamo nello nel spazio anche dell'Emilia Romagna. Mentre invece Ungreen, Ung vuol dire attaccati, appendere. Green appendere, insomma. Infatti, allora, voi parlerete di pareti verticali. Cominciamo con Junker, però. Ricordiamo che sono due delle sette startup, esatto, che sono state risultate vincitrici del premio sull'innovazione per la sostenibilità, assegnato proprio ieri qui a Expo da Autogrill, che è giunto alla decima edizione, quindi complimenti intanto. Complimenti. Da cosa partiamo? Allora, Junker, la vostra app aiuta la gente a capire se quello che ha in mano da buttare via in cucina o in qualunque altro punto della casa, qualsiasi rifiuto, dove metterlo. Però ci sembrerebbe che in fondo ormai, vabbè, insomma, l'umido, la carta, il vetro, la plastica è finita lì, e non è così semplice. E invece no, è molto più complicato. È molto più complesso di così, perché certe volte da strada a strada, da quartiere a quartiere, da comune a comune, la divisione e la suddivisione cambia. Può essere una differenziata a 3 bidoni o a 4 bidoni, a seconda se si va per imballaggi leggeri, e allora abbiamo carta, plastica e lattine, oppure si divide carta e plastica e lattina in tre bidoni diversi, quindi i cittadini devono stare molto attenti. Poi ci saranno dei comuni più avanti, dei comuni più indietro. A Roma è un classico, perché i nostri municipi sono a stadi diversi di avanzamento e i cittadini nel dubbio vanno a gettare l'immondizia nei quartieri che ancora non sono partiti, così buttano tutto nell'indifferenziata. Bello, ecco. E questo non sembra un problema, diciamo, da poco, cioè può sembrare, ma non lo è, perché diciamo che ha delle conseguenze piuttosto importanti e pesanti anche per le nostre tasche. Molto pesanti, ecco. Perché il rifiuto indifferenziato, la media italiana, e questo è un dato ISPRA, dice che costa il 15% in più nella gestione e nello smaltimento rispetto a un buon rifiuto separato, differenziato. Quindi Fatti i conti, ISPRA sempre dice che un spostamento di 1% in più di differenziata può far risparmiare alla municipalizzata o al comune da 50 centesimi fino a 4 euro a cittadino all'anno. Quindi, e voi con la vostra app cosa fate precisamente? Date indicazioni? Puntuali. La nostra app praticamente interroga un database di 1 milione di prodotti. Se consideriamo che un ipermercato ne contiene 140-170 mila, 1 milione praticamente copre tutto. L'impossibile, quello che potete immaginare, e lo identifica solo guardando, inquadrando il codice a barre, quindi identifica proprio quel prodotto, ne indica i materiali, e in questo è il primo database europeo che associa prodotti a materiali, ma soprattutto grazie al GPS che è dentro a ogni smartphone può geolocalizzare l'utente e chiamare le regole della zona. Quindi il nostro utente, se cambia per lavoro, turismo, città o anche quartiere, agganciato tutto. Ha agganciato le regole e giuste. Quindi grande efficienza. 4 euro a cittadino è una cifra impressionante. Giulio Pischenda. Sono uscite un sacco di ricerche in questi ultimi tempi che dicono che per il benessere generale, non solo fisico ma proprio anche psicofisico, nelle città, appena ci fosse un buchetto dove mettere del verde è cosa da farsi. Esatto. Voi il verde lo mettete anche in verticale. Che cosa avete studiato? Io personalmente? No, che cosa avete... Ah, come studi? Loro sono giovanissime università. No, che cosa avete studiato con la vostra startup? Sì. Che cosa avete prodotto? Allora, la nostra startup si occupa principalmente di risolvere il problema di spazio, tempo e capacità di tutte le persone che vorrebbero del verde ma non possono per questi problemi. Ecco. Quindi abbiamo ideato un modulo di giardino verticale che è componibile con tanti altri, di svariate misure, in modo che in casa tutte le persone possano avere un piccolo spazio verde anche senza avere lo spazio. Anche piccolo? Fino a quanto può diventare grande? Il più grande, grande quanto un euro pallet, è largo più di 1 metro e alto più di 80 centimetri. Ma uno può comporli? Può comporli. È fatto in maniera modulare, diciamo. Esatto. Ok, ed è anche low cost, perché sì, è fatto con materiali, diciamo, di riciclo. Però sì. Possiamo dirlo. Ordine di grandezza massimo? Il prezzo, diciamo, di quello più grande si aggira esagerando sui 200 euro. Quindi è una roba approcciabile. E sì, voi cosa fate? Ricevete un'ordinazione e fate arrivare a casa? È anche automontabile? Sì, è già montato, arriva già montato, a chi arriva lo prende e lo dispone dove preferisce. Con un trapano. Se lo volessimo, dove ti troviamo? Sul nostro sito abbiamo lanciato una landing page all'indirizzo engreen.it. Allora, engreen scritto H-A-N, okay. Green. Sì. E l'altro è Junker. Esatto. J-U-N-K-E-R. Noi ci fermiamo qualche istante e poi torniamo qui da Expo. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Mobius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ai, ci siamo persi la birra. E all'inizio avevamo detto che avremmo avuto un ospite d'oltreoceano che ci avrebbe raccontato della birra. Purtroppo dobbiamo dire che qui a Expo, insomma, non riusciamo a contattarlo. Non siamo riusciti, e quindi parleremo della birra nella prossima puntata di Mobius, comodamente dal nostro studio. E però qui abbiamo un ospite d'eccezione, lo salutiamo. Allora, mi perdoni se non pronuncio bene il suo nome. Si chiama Tokube Masuda, è corretto? Sì, quasi, sorride. Buonasera. Abbiamo anche l'interprete Sofia Vitali che ci aiuterà a capire, insomma. Entriamo nel mondo del sakè. Adesso stiamo per degustare la prima degustazione radiofonica in diretta. Ecco, voi intanto servite pure. Io intanto dico che Tokube è presidente del Dipartimento Relazioni Estere dell'associazione Japan Sake e Sochu. Sochu, i produttori di sake e sochu. Non guardateci così, non guardate male, non ce la facciamo. Perché adesso vogliamo sapere intanto che cos'è il sake e cos'è il sochu. E poi tutta la tradizione ovviamente giapponese, perché oggi nel vostro padiglione giapponese avete festeggiato, insomma, in qualche modo avete fatto queste degustazioni, e quindi anche io e Federico vogliamo partecipare. E diamo la parola intanto che noi ci beviamo questo sake. Lasciami dire intanto che è fervente. Già questa è una cosa che noi non sapevamo. E infatti dopo entreremo nel dettaglio di quanti tipi di sake possono esistere, però intanto ci facciamo raccontare che cos'è. お酒とは何なのかとその伝統的な見方なんどをお聞きしてよろしいでしょうか。お酒とは今から2000年前に日本酒は作られまして、お米と米麹というのを使って お米はまあ澱粉なので、それを麹の力で糖に変えて、それをまたアルコールに変えるという、世界でも最も珍しい技術の多いお酒です。 Allora, il sake è nato 2000 anni fa circa ed è creato con riso e koji, che è un tipo speciale di muffa. Appunto l'amido del riso in contatto con questo koji crea lo zucchero, che poi col lievito crea l'alcol finale. Questo sono le origini. Noi tendiamo a pensare che il sake sia una cosa sola, cioè si fa in un modo solo, un tipo solo. Ma è così, oppure è come per esempio la nostra grappa o il nostro vino, cioè che ci sono tanti tipi di sake? Il sake in Italia とかでしたら一つ種類が一つしかないというように思い浮かちなんですけど、実際はどうなんですか。グラッパみたいにいろんな種類があるんですか。今実は今日持ってきた濁り酒っていうのはマーチさんのイタリアのスパークリングワインと一緒で、スパークリングのものもあれば普通の澄んだ純米大吟醸というのがあったり、いろんなタイプがあります。 Il sake ha in verità molti tipi di, ce ne sono molte tipologie. Ad esempio, quello che vi ho portato oggi è un sake non filtrato, è una tecnica nuova, in quanto normalmente il sake non è frizzante, mentre questo qui è frizzante. Sì, infatti adesso dobbiamo dire io e Federico che davvero è squisito, freschissimo. Buonissimo. Freschissimo, invece io mi sarei aspettata dai Federico, dobbiamo fare chiudere la trasmissione. Un sake caldo, ma adesso vi chiedo. Poi ho visto che è 17 gradi, diversa. Quindi insomma ha anche la sua gradazione alcolica. Ecco, la gradazione da quanto va a quanto va a seconda dei tipi. 日本酒というのはだいたい度数でいうとアルコール度数はどれくらいなんでしょうか。平均してだいたい15度から17度ぐらいのものが多いです。でも最近は結構やっぱ若い方も度数の低い例えば4%とか8%とかそういう日本酒も実は最近出来上がって、結構若い人も人気が増えました。 Normalmente parte dai 14 ai 16 gradi, però recentemente stanno creando anche dei sake molto più bassi a livello alcolico, attorno ai 4-8 gradi, per permettere anche ai più giovani di berlo. Sofia ci stava dicendo che esistono, ci stava traducendo prima che esistono diversi tipi di sake. L'abbiamo interrotta. E ad esempio ce n'è un altro tipo che è più chiaro, diciamo, e si chiama Daiginjo. Che è un tipo molto raffinato, utilizzato spesso. E come si utilizza in Giappone? Quando si utilizza? Si pasteggia come il nostro vino, oppure a fine pasto? Com'è la tradizione? Come la utilizzate? O sake to yono dento tekini wa douyu fuu ni tsukawaremasu ka? Do ano shokugo ni nomaretari douyu toki ni tsukawaremasu ka? Nihonshu tte no wa o ryori to issho ni taberu no ga hotondo nan desu kedomo, o sake dake nomu tte no wa amari arimasen. だからお料理とお料理を支えるような形で飲むようなものが結構多くて、だからワインのようにマリアージュっていうか、そういう形よりもお酒っていうのはお料理と一緒に結構最初から最後まで飲むっていうのが日本酒です。 Normalmente viene consumato durante il pasto, anzi quasi mai viene consumato fuori dal pasto, viene quindi sempre accompagnato dal cibo. Una differenza che posso dire col vino è che il fatto che appunto il sake è fatto per risaltare il gusto del cibo, mentre magari in Italia si assapora contemporaneamente con il cibo stesso, quindi sono più o meno allo stesso livello. Il sake invece viene consumato contemporaneamente, nel senso si mette il cibo in bocca e poi si beve anche il sake, però appunto serve per migliorare il pasto stesso, per risaltare il pasto. Adesso in Italia sono arrivati tanti ristoranti giapponesi, e questa è una cosa molto bella perché è una bella cucina. Noi però in Italia abbiamo incontrato il sake con i ristoranti cinesi, che sono arrivati molto prima. Allora c'è anche un sake cinese, oppure è un po' contrabbandato? Se non erro, si utilizza a fine pasto. Che si utilizza nei ristoranti cinesi, a noi l'hanno sempre dato a fine pasto. Ma va shoku no restaurant ga sugoi ano Italia demo fuete kiteiru in desu kedo, o sake tte iu no wa mazu chugokke no chuka no restaurant de hajimete, Italia de wa sukunakutomo soko kara fukyu shita shita. Hajimete nonda sake wa chuka restaurant de nonda tte iu kata ga okute, sore wo mata shokugo ni dasu desu yo. So iu no wa dou iu da you na o sake nan desho ka? So desu ne, ma Europa no baai wa dou shimo yappa chuka no kata ga oi no de chuka kara hajimaru no ga oi in desu kedo mo, ma saikin wa demo yappari nihonshu no baai wa kekkou o sushi ya san から始まるものが多くて、寿司とか和食の店から始まるんですけども、まあ、多分その中華の方がちょっと間違ってお出しになってるのかもしれません。 Allora, normalmente ho sentito che appunto qui in Europa sono ovviamente i cinesi ci sono, e quindi molta della cultura asiatica è stata introdotta dai cinesi stessi. Sì. Normalmente noi, come cibo giapponese, come ristorante giapponese, viene servito spesso ad esempio nei sushi bar, quindi in zone dove si vende sushi. Su questo sake cinese probabilmente posso solo dire che magari è una cosa non è stata introdotta da loro, che è una cosa un po' più particolare, diversa, più particolare. Differente. Vuole aggiungere? A tomo shitsu ne, nihonshu tte iu no wa ironna ondo de nomeru desu. Datta atsukan tte iu 50 do toka 40 do toka 30 do toka 10 do toka 0 do toka で、その温度によってそれぞれお料理に合わせるものがそれぞれ変わったり、和食でもそんな風にしてすごくバリエーションの広いお酒です。温度帯にもよりますけども。 Allora, un'altra cosa che volevo aggiungere è che appunto il sake può essere consumato a varie temperature, a freddo, a caldo, a temperatura ambiente. Ecco. E a seconda appunto delle temperature con cui viene consumato cambia anche la variazione, cambia anche il piatto con cui viene servito, quindi può essere abbinato a vari tipi di piatti. Ad esempio, tateba do iu fu ni awaseremasu ka? Adesso che abbiamo il ristorante giapponese. Attakai hontoni nihon desu ma tateba o nabe ryōri ni wa attakai atsukan de nomu toka, tsumetai o tsukuri no yōna o sushi toka ni wa sukoshi hiyashita kaori no takai ginjōshu tte iu no de tabetari nondari tte iu no koto o shitari, iroiro na sono hontoni variation no hiroi o sake desu. Allora, ad esempio per piatti caldi come il nabe, noi abbiamo un piatto tipico chiamato nabe che ha una pentola tipo brodo in cui vengono versati diverse verdure. Sì, per questi tipi di piatti consigliamo il sake caldo. Caldo, giusto. Mentre per altri piatti a freddo, come ad esempio il sashimi, quindi pesce crudo, viene piuttosto abbinato un sake più, magari con un profumo più aromato, come ad esempio il daiginjo di cui abbiamo parlato prima. Ok, e due parole sulla produzione. Cioè, noi, il nostro vino insomma ha tutto un processo produttivo molto particolareggiato, e diciamo che nella bottiglia poi si sviluppa il vino anche pregiato gli anni. Invece per una bottiglia di sake come avviene la produzione? Cioè è più rapida? Devi invecchiare o no? ワインとかだとよく置いておく年数が経てば経つほど良くなると言いますが、お酒 の, 場合どういうふうにその時間的な感覚でどういうふうに作られて、その速いスピード感覚で作られるのか、 実はまあこういうすごく今日持ってきた濁り酒なんかはすごく新しくて、実は一月ぐらいしか経ってない、まだすごく若いお酒なんですが、実は日本酒実はすごく古いものまで持ってます。うちの蔵でも実は50年ものまでのストックを持っています。で、実はそれをストックするために江戸時代、今から300年ぐらい前のちゃんとそういうストックをする文献が残っていて、それをもとにして今こういうストックをしたり、古い古酒もだからすごく今受けております。 Allora, questo qui che vi ho portato ad esempio è molto giovane, non ha neanche un mese. Però ad esempio anche noi nella nostra fabbrica abbiamo vino invecchiato di 50 anni. Come appunto cultura di invecchiamento adesso sta anche ritornando di moda, è nata durante il periodo Edo, quindi 300 anni fa. Noi abbiamo appunto delle cisterne nate durante quel periodo che sono servite per questo, per appunto far invecchiare il sake stesso. Quindi può avere addirittura tanti anni di imbottigliamento decine di produzione. 何 年もあのそうやって置いておくことも可能で置いておくっていう文化があるということですね。 はい、まあ、それによってまあ色も濃くなりますけども、それによってまたやっぱすごく美味しくなるものもあって、すごくやっぱりあの貴重な珍重されてたっていうか、すごく貴重なお酒で、そういうお酒もまあうちなんかでもすごくストックを持ってまして、ワインと一緒のようにあの長い年齢のものもすごく今受けております。 A seconda delle tipologie appunto cambia anche il colore stesso, nel senso questo è trasparente e poi cambia, diventa più scuro, però a seconda delle tipologie ci sono quelli che vanno conservati e che conservandosi diventano molto più pregiati e molto più rinomati, un po' come il nostro vino. Va bene, grazie Tokube Masuda, grazie Sofia. Noi ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico e poi torniamo qua con un sacco di ospiti. Io sono anche abbastanza ubriaco, vediamo cosa fatta. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Che cosa fa Mebius spesso e volentieri? Risponde alle domande degli ascoltatori. E questa volta l'ascoltatrice Sara è venuta qua a trovarci, approfittando di Expo. E come no, qua. Sara, puoi porre, pensa che privilegio, la domanda in diretta ai nostri esperti che ci hanno già raggiunto qui in studio. Sono qua davanti a noi. Allora, la mia domanda è: perché gli insetti non si ammalano mai ma sono portatori delle più gravi malattie? È giusto, tipo la zanzara o... Insomma, adesso lo chiediamo ai nostri esperti. Allora, intanto ci hanno raggiunto anche loro. Grazie, Sara. Qui da noi. Grazie, Sara. Mario Colombo, entomologo di scienze agrarie dell'Università degli Studi di Milano, e Luigi Bonizzi, che è ordinario di malattie infettive degli animali domestici del Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica, so che ci tiene, dell'Università di Milano. Partiamo da Colombo, l'entomologo. Vogliamo dare una prima risposta a Sara, poi entriamo nel dettaglio di tutta la parte di infettologia. Gli insetti si ammalano e muoiono di malattia. Però non si ammalano delle stesse malattie di cui sono portatori per Bravissima. Noi. E poi meno malattie, Malattie diverse sono malattie microbiologiche, ma addirittura sono vittime di altri insetti. O ci sono altri insetti che veicolano malattie microbiologiche da un insetto all'altro. Quindi è una situazione molto complessa, ma gli insetti muoiono di malattia. Quindi è un'immagine fasulla questa che noi abbiamo. Totalmente falsa, tant'è che nella lotta biologica noi usiamo degli agenti microbiologici per ammazzare gli insetti senza usare prodotti antiparassitari chimici. Ma perché si dice però che sono invece robustissimi, e c'è chi dice che addirittura sarà la specie che governerà il pianeta dopo di noi? È una certezza questa, perché sulla Terra gli insetti ci sono da 250 a 300 milioni di anni. Se pensiamo a un salto che spicca una cavalletta, se dovessimo spiccare noi un salto pari, ci sfracelleremmo immediatamente. Facciamo cadere un insetto dall'altezza di 3, 4, 5 metri, arriva sul pavimento e poi ricomincia a camminare. Perché è leggero, funziona così la cosa. Ma facciamo un esempio. Allora, lo facciamo con Bonizzi. La zanzara della malaria, ecco, è portatrice di questa malattia, devo dire, molto grave per noi esseri umani. Perché non lo è altrettanto per, ad esempio, se stessa o per, ad esempio, i bovini che si trovano in Africa? Beh, perché ovviamente hanno dei sistemi biologici diversi. Ovviamente la zanzara è un sistema molto poco complesso, molto più semplice rispetto ad animali come il bovino o l'uomo, certo, che sono mammiferi. E quindi ovviamente la zanzara può veicolare, poi in alcuni casi può veicolarlo anche come vettore senza internalizzarlo, ma proprio trasportandolo in maniera proprio come se fosse uno zaino. Esatto, come uno zaino, un qualche cosa che lo porta da un soggetto all'altro. Del quale non è assolutamente influenzato. Assolutamente, quindi ovviamente il patogeno deve trovare, per potersi replicare, creare il problema, deve trovare delle cellule, degli organi, dei tessuti che sono adesso confacenti. Quindi se non li trova nella zanzara, è evidente che quindi la zanzara è un veicolo. Ci sta dicendo che più l'organismo è complesso e articolato, cioè meno lo è, più riesce a proteggersi da certe, no? E questa è la cosa, diciamo, in un certo senso è così. In effetti c'è un sistema immunitario che viene detto sistema immunitario innato o che è un sistema immunitario che da un punto di vista dell'evoluzione parte dagli esseri meno evoluti e man mano progredisce fino ad arrivare a un sistema immunitario che a quel punto diventa invece un sistema immunitario specifico, quindi che è verso un determinato microorganismo, verso un determinato patogeno. E quindi tutto questo è quello che fa sì che gli animali meno evoluti siano più resistenti nell'ambiente. Sì. È evidente che quando trovano un patogeno vero, magari sono un pochino più indifesi rispetto invece a organismi superiori come l'uomo o i mammiferi, che invece hanno un sistema che a quel punto va a aiutare il sistema cosiddetto aspecifico. Il vantaggio della complessità si paga in possibilità di ricevere più segnali negativi come positivi. Esatto. Però possiamo Chiara, dire tu che chiedevi in qualche modo si fanno un'evoluzione, come dire, lineare insieme il patogeno insieme al... E questo è sicuro, nel senso che il patogeno e l'ospite, possiamo chiamarlo così, ovviamente evolvono, cioè hanno un'evoluzione insieme, quindi hanno un'evoluzione che... coevolvono, coevolvono, e quindi ovviamente adottano dei sistemi, perché ovviamente se il patogeno uccide tutti gli ospiti non avrà più ospiti, quindi muore anche lui. Quindi c'è un sistema biologico che fa sì che mantiene il patogeno e l'ospite evolvano e quindi in qualche modo mantengano questo sistema. Prima le stavo dicendo che Chiara diceva, va bene, ma le mucche in Africa, i cani in Africa non prendono la malaria, gli asini? Beh, ci sono specie diverse. Adesso per esempio in Africa c'è una razza bovina che si chiama bovina andama, che sono più tripanotolleranti, cioè sono tolleranti verso la tripanosomiasi. Perché hanno avuto un'evoluzione insieme al patogeno e quindi ovviamente sono più resistenti. I nostri bovini hanno una maggiore produttività, ma sono più sensibili. Cioè, se una nostra famiglia di mucche fa un viaggio in Africa, si prende la malaria. Certo, come anche noi, voglio dire, ma è una cosa che anche nell'uomo succede, perché soggetti che hanno vissuto in zone endemiche della malaria sono più resistenti alla malaria rispetto a popolazioni che la malaria non la incontrano mai. Certo. Oppure quando noi andammo nei continenti sudamericani, per noi erano delle malattie da poco, per loro furono letali. Totalmente. Il morbillo, per esempio, è stato letale per le popolazioni americane. Ma vi dicevo prima, la malaria, per esempio, se voi vedete in certe zone dove appunto è endemica, ci sono però altre patologie, tipo l'anemia falciforme, perché è un sistema che serve agli individui per resistere un po' di più alla malaria. Quindi sono sistemi che sono complessi, insomma. Ma c'è un insetto più forte di tutti? Non più forte di tutto, insomma, ci sono degli insetti Federico particolarmente... vuole trovare quello che resisterà a tutti e a tutti. Tempo fa avevo letto che riescono a resistere addirittura alle radiazioni da bomba nucleare. Allora, quando parliamo di insetti parliamo di oltre 1 milione di specie riconosciute. Siamo 1.300.000 specie. Se noi le confrontiamo all'Homo sapiens, che è una specie, abbiamo un confronto che è impari. Teniamo conto che gli insetti si stima siano attorno ai 4 milioni di specie, quindi abbiamo una varietà di insetti che è strabiliante, per cui ci sono quelli più resistenti e quelli meno resistenti. La resistenza è sempre un fatto, come dire, soggettivo, qualificarla e definirla. È certo che certe specie, pensiamo alle termiti o alle api, che producono ognuna milioni o milioni di uova, un individuo solo, danno luogo a un fenomeno di resistenza dovuto al numero di individui che produce. In generale diciamo che ci sono insetti che resistono maggiormente in certi ambienti, ci sono quei moscerini di Venezia, chironomidi, che vivono nelle acque più torbide e più putride della terra, altri che sono suscettibili, per esempio parlando dell'acqua, e sono degli indicatori ambientali. Ma se vogliamo fare un ritorno al discorso delle malattie, teniamo conto che l'uomo ha saputo e utilizza dei funghi che parassitizzano delle larve di farfalla che raccolgono e vendono Nepal, Tibet, e hanno dei valori economici che sono 1000 volte superiori a quello dell'oro. Utilizzati come? Devo dirlo? Questo punto come afrodisiaco, però anche in altri casi come terapie per malattie umane. Quindi è il parassita fungino che attacca l'insetto, l'uomo raccoglie l'insetto morto e utilizza questa simbiosi poco simbiotica del fungo più l'insetto per curare delle malattie o per dare certi stimoli. Ma come l'hanno scoperto questa roba qui? È di un complicato... Ma molte volte si deve risalire a quella che è la tradizione popolare del locale, per cui nel caso che dicevo prima, probabilmente io non sono stato in Nepal, ma non ho mai fatto uso di questi insetti parassitizzati, probabilmente ha verificato una maggiore fecondità o una maggiore stimolo, diciamo, da uomo a donna. Grazie. Non abbiamo più tempo, abbiamo pochissimi secondi per salutare, che dobbiamo dare la linea ai colleghi in radio, quindi grazie Bonizzi, grazie Colombo, grazie Sara, la nostra ascoltatrice che è venuta a trovarci qui, e grazie agli ascoltatori che ci hanno ascoltato sia qui ad Expo che su Radio 24. E noi torniamo la prossima settimana.